bici giù in cortile, con il sole fermo alle ringhiere. Mi ricordo ancora il freddo, le tue guance rosse, il mio maglione. Giocavamo ad essere grandi, ma mai grandi quanto i nostri sogni. Solo un'altra sigaretta, qui si aspetta un treno che non passa. 100.000 vite fa, inseparabili, ora dove sei, adesso cosa fai? D'improvviso penso a te, d'improvviso penso che ti vorrei sentire anche per un istante. Ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre. Ti vorrei guardare senza dire niente, lasciare indietro quello che non serve. Anche se qui in fondo non è così male, e anche se non è il giorno di Natale, ti vorrei sentire anche per un istante, capire che anche per te è importante. Proprio come i monumenti abbandonati e soli in una piazza, polvere di vita che ha ricoperto tutta la bellezza. 100.000 vite fa, inseparabili, ora dove sei, adesso cosa fai? D'improvviso penso a te, d'improvviso penso che ti vorrei sentire anche per un istante. Ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre. Ti vorrei guardare senza dire niente, lasciare indietro quello che non serve. Anche se qui in fondo non è così male, anche se non è il giorno di Natale, ti vorrei sentire anche per un istante, capire che mentre gli anni passano come fosse un ballo fuori tempo, tu sei con me, tu sei con me, che ti vorrei sentire anche per un istante. Ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre. Ti vorrei guardare senza dire niente, lasciare indietro quello che non serve. E anche se qui in fondo non è così male, e anche se non è il giorno di Natale, ti vorrei sentire anche per un istante, capire che anche per te è importante. Anche per te è importante. Anche per te è importante.